24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava. L'appuntamento di oggi con 24 ore in Europa si apre con la crisi immigrazione. Corre sul filo della polemica il rapporto Italia-Francia dopo le dichiarazioni del ministro Franco Frattini e la risposta del Quai d'Orsay. Oggi vi riportiamo a Lampedusa, avamposto d'Europa sul fronte migratorio, e vi parleremo anche degli stress test bancari. Seguiremo la visita del presidente francese Nicolas Sarkozy in Giappone e vi porteremo anche a Monaco di Baviera per l'incontro dell'Agenzia Spaziale Europea. In primo piano, come dicevamo, il botta risposta Francia-Italia sulla crisi migratoria dopo l'attacco di mercoledì del ministro degli esteri Franco Frattini, che in un'intervista aveva definito lo stop degli immigrati alla frontiera italo-francese di Ventimiglia come uno degli aspetti gravi di mancanza di solidarietà da parte francese e di mancanza totale dell'Europa. Noi applichiamo il diritto come definito dai trattati internazionali, tra cui gli accordi di Schengen, così il portavoce del ministero degli esteri francese Bernard Valero. Il portavoce ha sottolineato che la Francia non ignora le sfide migratorie nella situazione alla quale l'Italia e altri sono confrontati. Poche ore prima il portavoce della commissaria europea agli affari interni aveva annunciato che Bruxelles sta lavorando per attivare la solidarietà e redistribuire i rifugiati che arrivano dal Nord Africa. Nel prossimo Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'11 aprile i ministri dell'Unione lavoreranno su due scenari di riallocazione. Ma intanto, in attesa delle promesse del governo, gli abitanti di Lampedusa devono affrontare pesantissimi disagi. È il giorno delle promesse. Berlusconi promette di liberare l'isola, di diventare lampedusano, di fare un campo di golf e anche un casinò. Tra gli applausi e qualche fischio prevale la rassegnazione. Giovanni Mannoni, un albergatore. Noi siamo sempre stati abbandonati, siamo l'ultima isola, l'isola più a sud d'Europa e per questo emarginati. C'è anche un forte danno economico. Sentiamo un'albergatrice stanca di promesse. Arrabbiati certo, perché facciamo delle spese, giochiamo tutto e dopo non viene nessuno, come si fa? Ma non è solo questione di soldi, cresce la paura, l'intolleranza, il senso di abbandono. Io una settimana che faccio la guardia armata con un bastone sotto la barca. La barca ogni notte rifugio di questi poveracci dove fanno tutti i loro bisogni, è diventata una porcheria. Hanno mangiato tutti i cani randaggi dell'isola. Tutti i cani randaggi dell'isola. Forse voi non vi rendete conto. Cosa vi aspettate da Berlusconi? Che liberi un po' l'isola. L'isola va liberata di queste 6.000 presenze. Dopodiché possono trovare tutte le strategie politiche per fare o respingimenti, accoglienza, tutto quello che si vuole. L'importante è che l'isola venga liberata, perché è un'occupazione questa. Siete stanchi di promesse? Siamo stanchi, è la parola giusta. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'altra parte d'Italia, a Ventimiglia, ci sono i respingimenti da parte della polizia francese al confine, su cui si innesta, come dicevamo, lo scontro diplomatico Roma-Parigi. Il racconto del viaggio dei migranti fuggiti da Lampedusa e Manduria di Raffaella Calandra. Sentiamone un estratto. Il nome è Tradouane, partito da Gerba, arrivato in Lampedusa, la famiglia, papà in Francia. Gradouane, un passato negli alberghi di Gerba e un futuro immaginato in Francia, ma infranto al momento davanti alle sbarre abbassate dei valichi. Siamo in seria emergenza, i francesi hanno intensificato i controlli e quindi 20.000 è diventato un tappo. Guarda la stazione trasformata in un rifugio a cielo aperto e parla di un'emergenza serissima il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino. Accampati, poco distanti dai binari, ci sono quelli che arrivano con i treni da Genova e ci sono quelli che già tornano dopo averci provato ad andare dall'altra parte. Nell'ultimo giorno e mezzo si sono verificati almeno quasi 300 persone. Sono tutti fermi alla stazione, la stazione è impraticabile, vera emergenza. Bisogna bloccarli prima. Gli Stati Uniti esprimono profondo apprezzamento al presidente Giorgio Napolitano e al premier Silvio Berlusconi per la promozione della pace e della stabilità in tutto il mondo e per il costante appoggio alle operazioni in Libia sotto il comando NATO. Lo ha detto il presidente americano Barack Obama telefonando al capo dello Stato Napolitano. Obama ha ribadito la volontà di continuare con consultazioni ravvicinate tra i nostri due governi, in modo da agire per proteggere il popolo libico e far valere le risoluzioni 1970 e 1973 approvate dalle Nazioni Unite. Intanto, prima defezione per il regime del colonnello Gheddafi. A lasciare il paese contestando la dura repressione delle rivolte è stato il ministro degli esteri Moussa Koussa, che ora si trova a Londra. L'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Mentre le truppe di Gheddafi stanno stringendo di nuovo d'assedio a Gheddafia, il nodo strategico a 160 chilometri da Bengasi, è arrivata stanotte la sorpresa. Il ministro degli esteri libico, Moussa Koussa, ha defezionato e dal Tunisia, dove si era recato nei giorni scorsi, è arrivato a Londra. Il secondo Tripoli è in missione, ma il Foreign Office, il Ministero degli Esteri inglese, afferma che Moussa Koussa ha abbandonato il suo capo, il colonnello, e lui è un personaggio, Koussa, molto importante nelle gerarchie libiche, è stato per molti anni il capo dell'intelligence, è stato colui che ha trattato in questi anni anche il famoso caso Lockerbie, l'aereo che pistò nei cieli della Scozia in un attentato organizzato dai libici. Fu lui che negoziò con gli inglesi e poi anche con i francesi il ritorno di relazioni diplomatiche con il mondo occidentale. Insomma, un brutto colpo per il colonnello che vede allontanarsi da Tripoli uno dei fedelissimi. Forse questa è la defezione più importante delle ultime settimane. Gli esperti del Servizio di Azione Esterna Europea hanno completato il testo riguardante la missione comune militare per sostenere l'intervento umanitario in Nord Africa a seguito del conflitto in Libia. Il testo, che fissa il mandato dell'operazione EUFOR Libia, dovrebbe essere approvato oggi con procedura scritta e prevede che il quartiere generale operativo sia a Roma e che il comando sia affidato al contrammiraglio italiano Claudio Gaudiosi. Apriamo ora la pagina economica con la borsa, chiusura in negativo per il FTSE All Share -1,05%. Milano ha realizzato la peggiore performance in Europa, penalizzata soprattutto dalla decisa flessione del comparto bancario. Il FTSE MIB ha lasciato sul terreno l'1,24% con Intesa San Paolo che ha guidato le vendite sul paniere principale con un calo di oltre il 4%, male con i credit BPM che hanno perso più del 3%. Le banche italiane in un comparto europeo in ribasso del 2,3% circa hanno risentito essenzialmente di tre fattori. L'annuncio di Moody's, che non ha escluso nuovi declassamenti dei rating sovrani dei paesi dell'Eurozona, l'attesa per l'esito degli stress test sulle banche irlandesi, comunicato sul finale di seduta, e i timori per ulteriori aumenti di capitale. Tra i titoli positivi, la migliore sul paniere principale è stata Parmalat, +1,2%, alla vigilia del CDA che dovrà decidere sul rinvio dell'assemblea dei soci per il rinnovo dei vertici. Hanno chiuso a due velocità Fiat e Fiat Industrial, che avevano toccato i minimi a metà marzo. La prima, che racchiude l'attività auto, ha ceduto il 2,7%, mentre Fiat Industrial ha guadagnato lo 0,9%. Livia Zancaner da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore. Allied Irish Bank e DBS Building Society si fonderanno per dare vita a una nuova banca nel quadro del piano di ristrutturazione del sistema creditizio irlandese deciso dal governo di Dublino. Lo ha dichiarato il ministro delle finanze Michael Noonan, aggiungendo che Bank of Ireland avvierà dal 2013 il processo di dismissione di asset per 30 miliardi di euro. E sugli stress bancari sentiamo il professor Donato Masciandaro, docente di economia della regolamentazione finanziaria all'Università Bocconi, al microfono di Sebastiano Barisoni. Personalmente trovo l'esercizio degli stress test, se va bene, inutile, se va male, dannoso. 24 miliardi, ho capito che lei dice o inutile o dannoso, ma sono tanti o pochi secondo lei in un governo che ha già messo 100 di miliardi dentro e che molti vedono dover ormai salvare anche Bank of Ireland e Irish Life, buttandoci dentro altre decine di miliardi? Beh, credo che ormai la situazione per il governo irlandese sarebbe bene fare definitivamente chiarezza, anche perché è evidente che quando c'è una situazione di pericolo di default, a tutti è chiaro che chi presta è lo Stato, cioè il contribuente irlandese. Forse piuttosto che questo stillicidio con gli intervalli degli stress test che danno cattive notizie a intermittenza, forse sarebbe bene fare una doccia fredda e presentare il conto tutto in una volta. In Europa intanto sale l'inflazione nelle ore in cui i banchieri centrali e i ministri delle finanze del G20 sono riuniti a Nanchino in Cina. Le tensioni sul petrolio non hanno impiegato molto a tradursi in un aumento dei prezzi. Ora il passaggio è ufficiale. L'inflazione a marzo è salita del 2,5%, stime provvisorie che indicano un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,4%. Carburanti alimentari, neanche a dirlo, le voci più care. In zona euro va anche peggio, l'inflazione sale al 2,6% e il prossimo aumento aumento dei tassi di interesse diventa certezza. I problemi sul tavolo dell'economia non mancano. Ce n'è uno che, pur cambiando le città ospitanti, pur cambiando l'ordine del giorno, resta sempre lì: la moneta cinese. Di fronte alle forti fluttuazioni dei tassi di cambio, dice il presidente francese Sarkozy, esistono due possibili reazioni, ognuno per sé, con il rischio di una guerra delle valute e di nuove crisi, o la cooperazione e il coordinamento. La sponda americana è pronta, il segretario al tesoro Gaettner chiede ancora una volta una maggiore flessibilità per i tassi di cambio. Dettaglio non trascurabile, il seminario dei ministri delle finanze del G20 si svolge nella Cina orientale. Gaettner non menziona apertamente la Cina, ma il discorso è più che chiaro. I grandi paesi emergenti hanno politiche largamente flessibili, mentre altri hanno politiche strettamente controllate. Risponde il vicepresidente cinese: Pechino collaborerà per un sistema monetario più equilibrato, ma non una parola sul tasso di cambio dello yuan. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci trasferiamo in Giappone per la visita del presidente di turno del G8 G20, Nicolas Sarkozy. Sentiamo Stefano Carrer del Sole 24 Ore. Mi trovo in questo momento al Kantei, la residenza del primo ministro giapponese, dove si è appena concluso l'incontro tra Naoto Kan e il presidente della Repubblica Francese Sarkozy. Sarkozy, che proveniva dalla Cina, ha portato la solidarietà dell'intero G20 di fronte alla catastrofe che ha colpito il Giappone e ha parlato della grande dignità e del coraggio del popolo giapponese ammirato in tutto il mondo nella circostanza. Ma la cosa più importante che è uscita da questo incontro è che la Francia organizzerà a Parigi a maggio un incontro di tutte le agenzie per la sicurezza nucleare dei paesi del G20 per cercare di fissare nuovi standard globali sulla sicurezza delle centrali nucleari. Sarkozy ha parlato che entro la fine dell'anno bisognerà appunto elevare i livelli di sicurezza delle centrali nucleari in tutto il mondo e si dovrà concordarlo appunto tra i vari paesi del G20, anzitutto in vista della riunione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica che si terrà poi a giugno. Di Giappone si è parlato anche alla riunione dell'Agenzia Spaziale Europea a Monaco di Baviera. Gigi Donelli. Pensate, proprio di fronte alla centrale di Fukushima, nella provincia del Sendai, passa la corrente di Kuroshio, che è l'equivalente del Pacifico, della corrente del Golfo. Vi dico questo perché lo scorrimento di questo enorme, di fatto, fiume sottomarino che passa di fronte alle coste del Giappone è uno dei fattori chiave sui tempi di dispersione e anche dell'inquinamento. Naturalmente l'oceano in generale è un grande generatore ambientale, la velocità delle correnti è importante. Questo per dire che oggi a Monaco, in occasione della presentazione dei dati di GOCE, che è l'ultimo modernissimo satellite per la misurazione appunto della forza gravitazionale ma anche delle correnti oceaniche, il direttore del progetto per l'esplorazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, Volker Liebig, ha voluto insistere anche sull'importanza del grande progetto europeo di osservazione del pianeta, che naturalmente è scientifico, che arricchisce le università, ma che tende sempre di più anche a rispondere alle esigenze di conoscenza di emergenza delle popolazioni del pianeta intera. In chiusura il calcio, andiamo in Inghilterra. Dopo l'ultima bravata per Mario Balotelli, talento discusso del Manchester City, è arrivata una maxi multa. Sentiamo. Vittima di se stesso, ma anche dei tabloid inglesi. Davvero Mario Balotelli non riesce a stare lontano dai guai e dalle copertine patinate. Conseguenze inevitabili, quindi, per la sua immagine e ora anche per le sue tasche. L'ultima bravata gli è costata una maxi multa. Il Manchester City ha deciso infatti di trattenere a Super Mario una settimana di stipendio, circa 120.000 euro, per aver lanciato una freccetta all'indirizzo di un calciatore del settore giovanile. Primo ad arrivare sulla notizia, manco a dirlo, il tabloid Sun, che ha rivelato anche che ad accompagnare la multa per Balotelli è arrivato pure un richiamo ufficiale. Altre intemperanze quindi non saranno più tollerate, sperando che tutto ciò basti per placare i bollenti spiriti di Super Mario, almeno fino alla prossima bravata, la prossima copertina. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda gli appuntamenti del giorno, oggi vi segnaliamo la seduta plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Questo è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa. In collaborazione con Euronet.